Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi comincio con una domanda. Ma voi il ponte sullo stretto di Messina lo vorreste costruire o no? Il tema è tornato d'attualità, si ricomincia a ventilare l'ipotesi, anzi molto più che un'ipotesi, il governo ha deciso di nuovo di costruire questa grande infrastruttura, è inserito anche nel piano di rilancio delle infrastrutture complessivo che dovrebbe dare una mano alla ripresa generale dell'economia. Chi non ha dubbi su questa domanda è una voce che voi conoscete bene, cioè Giuseppe Cruciani, il giornalista di Radio 24, che ha appena scritto un libro che non lascia dubbi fin dal titolo. Questo ponte sa da fare. Lo stretto di Messina e le opere incompiute che bloccano l'Italia. Pubblicato da Rizzoli, 178 pagine, 16 euro. Cerco di non esprimere dei giudizi, ma di riassumere il contenuto del libro di Cruciani, che vi assicuro è molto interessante. Per Cruciani il ponte di Messina si deve fare, si devono vincere tutte le remore che ne hanno impedito fino adesso la realizzazione, e soprattutto bisogna superare quella sindrome tutta italiana del discutere all'infinito senza concludere nulla. Scrive Cruciani, il ponte di Messina è certamente il simbolo di quest'Italia parolaia e inconcludente, e molti sono gli obiettivi degli strali dell'autore, per esempio l'ambientalismo, per meglio dire quello che lui definisce l'ambientalismo retrogrado, diventato religione o solo strumento di lotta politica. Quello, prosegue, che combatte il ponte in nome delle rotte degli uccelli, quello che ha timore che l'ombra del ponte possa disturbare i cetacei, quello che si batte perché tutto resti com'è, fisso, immobile, arcaico. L'ecologismo, che non ha mai detto una parola sull'inquinamento quotidiano dei traghetti, invece promuove marce e manifestazioni contro il ponte che non c'è. Ma Cruciani inserisce il dibattito sul ponte all'interno di una disamina più generale delle difficoltà italiane a realizzare grandi opere, grandi progetti, infrastrutture importanti, una incapacità quella italiana che invece contrasta con il grande dinamismo che mostrano molti altri paesi capaci di realizzare non solo i ponti ma altre importanti infrastrutture. E Cruciani parla in particolare proprio dei ponti, segnalando come questi molto spesso abbiano dato un impulso importante alla svolta e alla ripresa economica. Per esempio il ponte fra la Svezia e la Danimarca, salutato all'inizio come un'opera del tutto inutile, che viceversa ha portato a degli effetti molto importanti sul piano economico. Insomma, questo libro è un atto d'accusa molto documentato contro la paralisi decisionale spesso ammantata dalle migliori intenzioni. Il dibattito sul ponte di Messina si inserisce all'interno di un'altra questione, un'altra grande questione irrisolta, che è la questione meridionale, sulla quale torna un libro di Gianfranco Viesti, un economista e meridionalista famoso. Il libro si intitola Mezzogiorno a tradimento, il nord, il sud e la politica che non c'è, pubblicato dalla Terza, 206 pagine, 12 euro. L'autore parte dalla considerazione generalizzata del Mezzogiorno come insopportabile palla al piede, così lui stesso scrive. Una posizione che non è più soltanto dei leghisti, ma che è diffusa anche in ambienti politici insospettabili. Giornalisti, economisti, imprenditori concorrono a rafforzare, secondo l'autore, l'identificazione tra Mezzogiorno e una situazione, una condizione di sprechi inesauribile. Viesti vuole riportare un po' d'ordine in questo dibattito, vuole esaminare i fatti, indicare le prospettive e collocare la questione del Mezzogiorno all'interno di un grande e, secondo lui, ineludibile progetto di rifondazione complessiva del paese. Insomma, l'Italia non può migliorare se non cambia e non migliora il Mezzogiorno. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Gianfranco Viesti. Buongiorno. Professor Viesti, nel suo libro lei sottolinea come ci sia molto pessimismo, molta diffidenza nei confronti del Mezzogiorno. Non occorre essere leghisti, pare di capire, per essere abbastanza preoccupati delle condizioni del Sud. Ecco, quali sono le ragioni di questo pessimismo così diffuso nei confronti del Mezzogiorno d'Italia? Beh, il Mezzogiorno di questi anni è caratterizzato dalla scomparsa dei fatti e dalla sostituzione dei fatti con i luoghi comuni, e cioè molti italiani si sono convinti di un teorema per cui il Sud va molto peggio del resto del paese. Questo avviene nonostante colossali trasferimenti di risorse, per un motivo molto semplice: perché questi soldi sono tutti sprecati dai meridionali. Se ci mettiamo a guardare i fatti ci dicono cose diverse, non cose opposte, naturalmente. naturalmente nessuno può vendere un mezzogiorno meraviglioso, ma ci dicono cose diverse e abbastanza preoccupanti per alcuni aspetti. E cioè ci dicono che il sud e il nord camminano allo stesso passo, che è un passo di lumaca, negli ultimi 10 anni identico, e dunque abbiamo un problema mezzogiorno all'interno di un problema rilevantissimo che si chiama Italia. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il discorso è più complesso e diciamo non si può esaurire in una battuta, ma guardando i numeri dicono cose molto molto diverse da quello che è il sentire comune. Diciamo in una battuta, il mezzogiorno è, per quanto questo possa sembrare strano a molti italiani, un posto molto interessante da guardare, in cui non succedono cose cattive e che soprattutto bisognerebbe ricominciare a guardare, diciamo, con un occhio indipendente, obiettivo, cercando di vedere le cose che vanno e le cose che non vanno. Lei indica nel suo libro come soluzione da molti vagheggiata quella del federalismo, ma davvero il federalismo può essere lo strumento per risolvere questa doppia lentezza del nord e del sud? Dunque, la mia convinzione di fondo è che è molto antica, ma a mio avviso molto moderna, cioè che il mezzogiorno è una grande questione nazionale. Che significa questo? Che il mezzogiorno soffre degli stessi mali di cui soffre l'intero paese e che dunque se non li risolviamo dappertutto è l'intero paese che non va da nessuna parte. L'Italia non va da nessuna parte con questa giustizia, l'Italia non va da nessuna parte con questa scuola e con i risultati che produce, l'Italia non va da nessuna parte con queste infrastrutture. E dunque quello che serve al Sud è la stessa cosa che serve all'Italia, a livello nazionale e a livello locale. Il diciamo un maggiore decentramento può aiutare, perché se si associa una maggiore responsabilità di spesa fa bene a tutti. Naturalmente deve essere molto equilibrato nella disponibilità di risorse, quindi questo testo ora approvato dal Senato in realtà lascia molti dubbi, perché con quel testo può venire fuori un tipo di federalismo diversissimo che rispetti la lettera del disegno di legge, ma nella pratica può essere molto diverso. Diciamo la responsabilità, soprattutto quando si parla di mezzogiorno, e l'autonomia sono indispensabili in un quadro corretto di politiche nazionali. Lei indica a un certo punto come possibile sbocco di una situazione che non cambiasse, non si modificasse, la secessione dolce, così la chiama. In che cosa consisterebbe la dolcezza di questa secessione? Dunque, io penso che la secessione dolce sia già in corso, nel senso che molti nostri ascoltatori, al semplice considerare che si sta parlando di mezzogiorno, provano un senso di fastidio, perché ormai non ne vogliono più sentir parlare, tant'è chiaro che tanti soldi tutti buttati, adesso che si arrangino un po' da soli. È una secessione, diciamo, di cultura e di sentire molto interessante e molto pericolosa, che già sta avendo luogo nel paese. Io credo che di fronte a questo si debba diciamo reagire provando a ricostruire una narrazione diversa del mezzogiorno, provando a proporre fatti, facendo una fortissima autocritica per quello che è successo, ma diciamo provando a ritrovare gusto a discutere di questioni nazionali. La secessione è dolce perché diciamo non è una secessione de facto come la Cechia e la Slovacchia, ma mi preoccupa altrettanto l'idea che molti italiani si sono stancati del mezzogiorno, e questo è pericoloso per il mezzogiorno e secondo me anche per l'Italia. Grazie a Gianfranco Viesti. Un parere controcorrente sulla questione meridionale è quella che viene presentata nel libro di Piercamillo Falasca e Carlo Lottieri, Come il federalismo fiscale può salvare il mezzogiorno, pubblicato dal Rubbettino, 216 pagine, 14 euro. Si tratta di un pamphlet scritto in pochi giorni da due autori di esplicita fede liberale e liberista. È scritto nel segno della discussione che sta avendo luogo in Italia in vista del passaggio al federalismo. Molti temono che questo federalismo possa aggravare la condizione del mezzogiorno, invece i due autori ritengono che proprio il federalismo potrebbe innescare quella marcia verso lo sviluppo del mezzogiorno, che non sarebbe più dipendente dagli aiuti pubblici, dagli aiuti del nord, ma dovrebbe acquisire la capacità per dimostrarsi competitivo. Dicono i due autori che lo statalismo e il centralismo sono i veri nemici dello sviluppo del mezzogiorno. e sottolineano come se il Mezzogiorno potesse o dovesse far da sé, se fosse dato spazio al mercato, potrebbe davvero innescarsi un percorso virtuoso. Scrivono infatti i due autori: l'autonomia degli enti territoriali costringe la politica ad una forte responsabilizzazione, all'abbandono della spesa pubblica come leva per il consenso e all'esaurirsi della politica che si fa soggetto di intermediazione di ogni relazione sociale ed economica. Insomma, il federalismo come terapia shock per costruire quella che loro sognano, una specie di tigre mediterranea, così immaginano che si potrebbe trasformare il Mezzogiorno d'Italia. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Stiamo celebrando in questi giorni il centenario del futurismo. Il 20 febbraio del 1909, infatti, fu pubblicato sul Figaro di Parigi il Manifesto Futurista, dando inizio a un movimento che è stato uno dei più importanti del secolo, ma che per molti anni, per non dire per molti decenni, è stato molto trascurato nel nostro paese e non soltanto. E quindi questo centenario è l'opportunità per ripensare a questo movimento artistico e alle sue ricadute. Un libro dedicato proprio al fondatore del futurismo è quello di Giordano Bruno Guerra, intitolato appunto Filippo Tommaso Marinetti, Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario, pubblicato da Mondadori, 334 pagine, 20 euro. Con Marinetti, dice Guerri, inizia la galleria dei nostri contemporanei, di tutti gli uomini che hanno segnato il loro tempo allungandone gli effetti fino al nostro. Prosegue Guerri: quello di Marinetti è un invito valido ancora oggi a non prendersi sul serio, a scovare le ragioni del torto, a ridere delle nostre ipocrisie, a superare le meccaniche razionalistiche della saggezza con la gioia visionaria dell'entusiasmo di essere uomini. La vita dei Marinetti, come emerge da questo libro di Guerri, fu ricca di invenzioni, spunti e colpi di scena, e naturalmente il giudizio storico su questo personaggio fu poi segnato dalla condanna definitiva per la sua appartenenza al fascismo, che sfociò nell'adesione alla Repubblica di Salò. E questa contraddizione, così la giudica Guerri, tra l'anelito alla libertà intellettuale dai conformismi rappresentato appunto dal futurismo e l'adesione a una dottrina totalitaria come il fascismo, vuole affrontare questo libro ricostruendo passo passo la traiettoria intellettuale di Marinetti. Ma sentiamo queste righe relative proprio alla data del 20 febbraio 1909, alla scelta del nome del movimento futurista. La ricerca storiografica ha dimostrato da anni che la prima pubblicazione del manifesto non fu quella del 20 febbraio 1909 sul Figaro. Marinetti aveva inondato i giornali italiani di volantini con il testo e sono state rintracciate finora 8 edizioni a stampa precedenti le Figaro. Sulla Gazzetta dell'Emilia di Bologna il 5 febbraio, su Il Pungolo di Napoli il giorno dopo, sulla Gazzetta di Mantova il 9 e sull'Arena di Verona il 9 e 10. Sul Piccolo di Trieste il 10, ancora a Napoli sul settimanale Tavola Rotonda il 14, poi sul Giorno di Roma del 16. Prima che in Francia, il manifesto venne pubblicato addirittura su un giornale romeno di Craiova, Democrazia, il 16 febbraio. Era la prova che in Italia i grandi quotidiani come il Mondo Culturale avrebbero ignorato il suo progetto. Marinetti sosterrà sempre di aver scritto il manifesto l'11 ottobre del 1908, per amore scaramantico dell'11 e per suggerire che era stato steso di getto. In realtà l'analisi delle sue carte dimostra che fu composto, sia in francese sia in italiano, in giorni diversi di quel mese, prima e dopo l'incidente automobilistico del 15 ottobre, e che era frutto di elaborazioni precedenti. Anche la scelta del nome da dare al movimento fu laboriosa. Effetti era stato a lungo incerto fra elettrismo e dinamismo. Considerò pure l'ipotesi dinamo-elettrismo, subito scartata per la faticosa lunghezza. C'è anche chi vuole condurre l'origine del nome a quello dell'autore, di cui contiene le iniziali. E c'è chi sostiene che fu Umberto Notari a suggerirlo, in quanto i futuristi equivalgono all'uomo del futuro. Molti studiosi ritengono che a Marinetti non potesse essere sfuggito un articolo pubblicato il 1 dicembre 1908 sul Mercure de France, cui collaborava. Vi si parlava di una conferenza tenuta da Gabriella Lomar all'Università di Barcellona il 18 giugno del 1904, intitolata appunto «E il futurismo». Anche se Filippo Tommaso avesse copiato il nome, perfetta sintesi della sua idea, fu lui a riempirlo del contenuto che l'ha reso così importante. Oltretutto, per concludere la disquisizione sull'origine del termine, la parola era già stata usata con altri significati da Vincenzo Gioberti a metà Ottocento in La libertà dei cattolici e da August Strindberg in una lettera del 1894. Quanto alla data di pubblicazione del manifesto, FT pensava all'ultimo giorno del 1908 o al primo del 1909 per dare un'indicazione di rottura con il passato e di slancio verso il nuovo. Il progetto fu mandato a monte dal più apocalittico e imprevedibile degli eventi, il terremoto che il 28 dicembre 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria, provocando 200.000 morti. I giornali europei erano pieni di notizie e reportage sulla tragedia e sarebbe stato assurdo affogare il manifesto nel mare di articoli su un fenomeno che con il futuro aveva poco a che fare. Che era segno, anzi, di un terrore antico e insuperabile, anche dagli scienziati più ottimisti, sulla possibilità di prevedere disastri naturali di quella portata. Marinetti devolverà il ricavato di un volume della sua casa editrice alle vittime del terremoto. E proprio a Marinetti è dedicata la mostra FT Marinetti uguale futurismo, che è in corso fino al 7 giugno alla Fondazione Stelline di Milano a cura di Luigi Sansone con un catalogo di Federico Motta. Questa è solo una delle tante mostre dedicate al futurismo, ricordo le principali, quella sempre a Milano a Palazzo Reale, Futurismo 1909-2009, velocità a più arte più azione, curata da Adam Asoer e Giovanni Lista, in corso fino al 7 giugno con un catalogo Schirà. A Roma, appena inaugurata, Futurismo, Avanguardia, Avanguardia di Didier Oettinger e Esther Cohen, e questa è in corso alle Scuderie del Quirinale fino al 24 maggio. A Bologna, che vuole appunto rivendicare il primato dell'Emilia-Romagna come prima tribuna del futurismo. Questa mostra si svolge a Fondazione Carisbo, si intitola 5 febbraio 1909, Bologna, Avanguardia Futurista, è curata da Beatrice Buscaroli ed è aperta fino al 30 aprile. Poi abbiamo quella di Rovereto al Mart fino al 7 giugno, Futurismo 100, Illuminazione, Avanguardia, Confronto, Italia, Germania, Russia, curata da Esther Cohen con il catalogo di Electa. E ancora Roma al Macro, curata da Achille Bonito Oliva, Futurismo, Manifesto 100%, in corso fino al 17 maggio. Parte proprio dal futurismo il libro di Giampiero Mughini, La collezione. Un bibliofilo racconta i più bei libri del Novecento, pubblicato da Einaudi, 286 pagine, 16 euro. L'autore è un giornalista e scrittore molto noto, è stato anche ospite da noi per il suo libro su Brigitte Bardot, ma qui si presenta nella sua veste di appassionato bibliofilo. Mughini infatti è un grande collezionista di libri, soprattutto di libri del Novecento, e questo libro descrive la sua passione ricostruendo quelli che sono a suo parere i più bei libri del Novecento, belli proprio come oggetti. Si avvia questa descrizione dei libri più belli del Novecento proprio con la descrizione della ricerca dei libri più preziosi del futurismo a partire dal libro Latta di Marinetti. Nonostante la passione per i libri, dice Mughini, quello per il futurismo è stata una passione tardiva, proprio perché per molti anni del futurismo non si occupava nessuno a causa dei pregiudizi ideologici che per molti anni fecero scendere una coltre di indifferenza, se non di ostilità, sul futurismo. Sentiamo appunto queste righe di Mughini che si riferiscono a questo fenomeno dal quale finalmente l'Italia si libera. Senza saperlo, e come tutti quelli della mia generazione, contro il futurismo ero stato vaccinato alla perfezione. All'università e negli altri luoghi deputati della cultura ufficiale ce lo avevano detto e ripetuto che i futuristi erano stati dei fascisti totali e dunque spregevoli dalla testa ai piedi, dei gradassi e degli squinternati da non prendere sul serio, cancellati, sepolti, buttati nella monnezza. Che non ci potesse essere alcun rapporto possibile tra fascismo e cultura, era questo il vaccino prepotente e la bestialità grande iniettati nelle vene della nostra generazione. Non era certo tipo da imbeccarmi al futurismo e ai suoi furori il mio amato professore e maestro di letteratura italiana all'università, Carlo Muscetta, un attore protagonista del filone culturale storicista che da Francesco De Sanctis portava ad Antonio Gramsci, un filone che nei confronti del futurismo e dell'avanguardia in genere aveva solo un moto sprezzante delle labbra. Muscetta mi aveva additato tante piste, non quella. Né mi era arrivato in quella seconda metà dei 70 qualcuno dei tanti segnali che emergevano dalla cultura italiana ad annunciare verità opposte. Il confettino. Vi segnalo oggi una storia d'amore, forse per meglio dire una storia di iniziazione alle prime passioni amorose, raccontata per immagine, via Curie Lotto di Mara Cerri, pubblicata da Orecchio Acerbo, 19,50 €. Con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it. Passo la linea a Respiro, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.